Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Oggi voglio proporre una riflessione a chi mi ascolta, che un po' è la coda lunga di riflessioni analoghe che ci siamo fatti per molto tempo, soprattutto nel corso della precedente stagione di Melog. Vi rendete conto, in queste giornate in cui per tutto è auspicabile, facile, è gradito, è tradizione muoversi, spostarsi, andare a spasso, girare per le città, viaggiare, andare ai luoghi di villeggiatura o perlomeno anche semplicemente avere delle vite più rilassate rispetto a quella quotidiana, perché ancora galleggiamo in un lungo ponte festivo. Chi ha più lavorato, chi ha meno lavorato, comunque sia c'è la festa nell'aria ancora per qualche giorno. Beh, possono sentire la stessa festa, lo stesso clima, vivere nei limiti delle loro situazioni personali, professionali, familiari, alla stessa maniera le persone che hanno un impedimento di tipo fisico a muoversi agevolmente. Voi direte, ma che problema c'è? Ci sono le barriere architettoniche superate nelle città, ci sono i supporti, hanno i parcheggi. Oggi la coscienza nei confronti delle persone disabili è molto maturata. Beh, io ho avuto domandare a 3 persone che hanno comunque dei problemi, 2 di loro devono muoversi con una sedia a ruote, un'altra una persona cieca, come vivono questi giorni, se per loro è normale esattamente vivere la festa come la vive qualsiasi altra persona. Il primo che ho voluto ascoltare è una persona di cui abbiamo già parlato, perché intervistai la madre, la scrittrice Simonetta Agnello. Lui è George Orby, che è un ragazzo malato di sclerosi multipla primaria aggressiva, quindi ha un problema per muoversi, che anche lui, vivendo a Londra, quindi lontano dalle nostre città, è comunque costretto ogni giorno a darsi da fare, arrabattarsi, fare dei grandi artifici di invenzione per riuscire a vivere la sua città. Ma è un ragazzo anche che viaggia molto, quindi viaggiando molto ci dà un quadro anche molto più ampio di quelle che sono le barriere, non soltanto fisiche, architettoniche, ma anche mentali, perché nelle città possono avere comunque tutti una vita il più possibile serena. Forse la cosa che mi ha più sconvolto del viaggio che ho fatto io in Italia è che quant'erano poche le persone, per esempio, che vedevo io in carrozzella in piazza. Ma assolutamente, l'Italia è un paese che da questo punto di vista è arretratissimo, è vecchio. No, poi perché non siete andati ai musei vaticani, mi ha detto Tomati. I musei vaticani sono totalmente infrequentabili. Il Museo Vaticano non siamo andati, forse proprio per questo. No, lo so, perché lo so che ho avuto amici che hanno questo problema. Entri e rimani nell'androne, non puoi fare niente, non puoi vedere nulla. È una vergogna veramente, è una vergogna. Ma è come nei vecchi tempi non mettevano i bagni per le donne nelle stazioni. Finché metti i bagni per le donne non viaggiavano e pensavano che le donne non volessero viaggiare. Ah, questo era il sistema, non c'erano bagni per le donne, così le donne almeno stavano a casa. Esatto, esatto. Quindi vale... Devo dire, al mondo d'oggi, secondo me, la maggior parte della gente non ci pensa, però purtroppo non pensando ci vuol dire che non cambia più niente. Tu viaggi molto in treno. In Inghilterra il metro londinese direi che sono il 50-60% accessibile. Lì non hai problemi, diciamo. No, vabbè, c'è sempre qualche stazione che non ha l'ascensore per la piattaforma dove arriva il tuo treno. Però generalmente dove è possibile fare qualcosa di ragionevole viene fatto. Invece in Italia quali sono stati i problemi che hai trovato? I problemi sono sia culturali sia fisici, parliamo di strutture. Allora, dal punto di vista fisico, per esempio c'è il metro di Napoli, dove ci sono ascensori, accessibilità e tutto il resto, però il disabile non può entrare nel treno da solo, perché la piattaforma non è fatta abbastanza vicina all'entrata del treno. E allora deve scendere il conducente per aiutarti a salire e scendere. E poi è una struttura moderna, fatta recentemente, mi pare. Napoli è fatta nuova di zecca. È nuovissima, l'hanno fatta nuova, non accessibile. Sì, sì, hanno fatto, allora, alcune cose, c'è l'accesso dalla strada alla stazione, dalla stazione al binario, però dal binario al treno non si può andare. Quindi tu devi rimanere sul binario. Ma è completamente inutile, hanno speso... tutti questi soldi, questo sforzo per fare la stazione e il binario accessibile e poi quell'ultimo passo dentro al treno non ci hanno pensato, è strano. E come dovevi fare a salire poi nel treno? A spinte e aiuti di passeggeri e di conducente. Con la buona volontà della gente che passava? Assolutamente. Invece, per esempio, a Londra, dove il sistema dei metrò è del Novecento, hanno fatto una cosa semplicissima: hanno alzato con un gradino grande e largo di 4-5 metri, hanno alzato 4 metri dalla piattaforma a livello dell'entrata del treno, così che il disabile va là, sale su questa piattaforma e poi quando arriva il treno la porta è a livello. Ah, quindi hanno adeguato una struttura del Novecento. Sì, sì, in una maniera molto semplice poi, perché potevano fare cose complicate con ascensori, cose elettriche, eccetera. Ed è così che sono riusciti ad adeguare quasi la metà delle stazioni. Senti, nei treni italiani come viaggi? Allora, nelle interurbane è complicato perché i treni sono molto alti. Se tu pensi quando sali in un treno che va da Milano alla Frecce, per esempio, ci sono 3 o 4 gradini per salire. E là ci sono o delle rampe che si possono usare, o in alcuni posti c'è anche una specie di ascensore mobile che usano. Ah, ti vengono a prendere, diciamo, una specie carrellino che ti porta su poi sopra. Una specie di rimorchio alzabile. Che devi prenotarlo prima, però. Sì, assolutamente. E funziona in quel caso. Poi c'è sempre tanto tempo, passa sempre tanto tempo. Ma ci passa un po' di tempo, però guarda, almeno si può fare. Quando hai trovato una situazione impossibile, proprio che dice ho dovuto rinunciare? Ma guarda, con fatto il viaggio era proprio per far vedere quello che si poteva fare. Sono sicuro che ci sono tante stazioni inaccessibili, come ci sono anche a Londra. Queste io non le ho viste però, perché per fare il programma quello che volevamo veramente fare è fare vedere la gente quello che si può fare. E per incoraggiare quelli che hanno strutture dove non funziona o dove non sono adeguate, di cercare di renderle più adeguate. Ci fermiamo soltanto un istante per le informazioni del traffico, riprendiamo tra un minuto. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Melog. Cronache meridiane. Come chi ci ha ascoltato nella precedente parte della trasmissione già saprà, per chi non ha ascoltato lo specifico adesso, stiamo facendo un test, stiamo sentendo le persone con dei problemi di disabilità, come vivono loro questi giorni di feste, come riescono a muoversi nelle città, in un momento in cui le città in realtà, chi più per chi meno, per chi in maniera più estesa, chi in maniera più limitata, comunque sono impregnate di un clima di festa, di fratellanza, di gioia, in cui tutti sembrano comunque da avere un occhio di attenzione in più anche per i problemi del prossimo. Senti, qual è la prima cosa che salta all'occhio dal tuo punto di vista quando poi sale su un treno? Ammesso una volta sia riuscita a salire sopra, come tu stai sopra il treno e sta cominciando a viaggiare, quando vedi una difficoltà in cui dici ma perché a me non ci hanno pensato? Guarda, a me non ci hanno pensato perché generalmente al disabile la nostra società ci pensa soltanto realmente dagli ultimi 20 anni forse. Prima di allora il disabile era visto come un disgraziato, una persona al quale era toccata una disgrazia al quale noi umani non potevamo fare niente. Invece negli ultimi 20 anni quello si chiama il modello sociale della disabilità è prevalso ed è l'argomento di dire no, non è il fatto che la persona non lo può fare, è che la persona con quell'impedimento non riesce a farlo perché la società o la struttura o l'architettura non glielo permette di fare. Quindi bisogna adeguare l'ambiente alla persona. Esatto, invece di pensare che il disabile è la persona è chiaramente una persona malata, però la ragione per la quale non può fare parte della società è perché non gli è permesso. Mi viene da pensare, in un treno di solito ci sta solo un bagno, due per disabili, in tutto un convoglio, non sono un po' pochi, come li trovi i bagni nei treni? Ti faccio una domanda che sembra banale, ma me lo chiedo tante volte. Guarda, i bagni Italia dei treni, parliamoci chiaro, generalmente non sono tra i migliori. Il disabile, ogni disabile è un po' diverso, questa è una cosa, allora fare il bagno che è perfetto per tutti i disabili non esiste. Fare dei bagni che fossero forse più grandi potrebbe essere più utile a chi, per esempio come me, c'è la carrozzina, però sono anche consapevole che la mia carrozzina è piccola, è larga soltanto 62 centimetri, ci sono altri che hanno malattie o problemi diversi, che hanno carrozzine molto più grandi. E non entrano nei bagni piccoli, chiaro. Esatto, che allora il fatto sarebbe utile avere dei bagni un po' più grandi. Molte volte mi dicono che la manutenzione è trascurata, che uno pensa, tanto qui non ci va nessuno, ci vanno in pochi, è vero? Ma guarda, è verissimo, perché in Italia in particolare i disabili tipicamente non escono molto di casa, e se la gente non vede un disabile in giro non pensa a quello che ha, le sue esigenze. E allora molto spesso io trovo, anche in Inghilterra, che parliamoci chiaro, ha gli stessi problemi dell'Italia, il bagno del disabile, hanno messo tutte le sedioline per i bambini piccoli nel ristorante, lo usano come un deposito per mettere i tovaglioli o quello che è. È un locale che viene usato per altre cose, tanto me ne metto. Assolutamente, però finché i disabili escono, sono visti, è quasi normale usare un posto che se tu non pensi che sia usato, lo usi per qualcos'altro. Ho capito, secondo me girano pochi e allora anche le strutture sono insufficienti. Esatto, il disabile deve essere visto per essere considerato, in Italia non è molto visto, in Inghilterra è molto più visto, in gran parte anche per le Olimpiadi del 2012. Ah, le Paralimpiadi, beh, quello è stato un grande evento. Le Paralimpiadi hanno fatto moltissimo per la visione tra il mondo abile e quello disabile. Quindi te in generale ti senti gli occhi un po' addosso quando viaggi nei nostri treni? Guarda, in Inghilterra no, in Italia forse un po' di più, perché sono più inusuale. Guarda, ti racconto la storia dell'autobus a Roma. Quando abbiamo fatto questo viaggio, uno della troupe ha detto, quando eravamo a Roma, ah guarda Giorgio, ferma quest'autobus e vediamo se non ci potrà entrare, comunque vediamo quello che fanno. Allora, abbiamo fermato l'autobus, l'autista è sceso, ha fatto uscire una rampa che era un po' nascosta per farmi salire, e poi sono entrato nell'autobus, giusto come farei a Londra, in un posto per i disabili. Quindi gli è andata bene, se è capitato. Esatto, andò benissimo. Uno dei pochissimi autobus attrezzati, uno dei pochi autisti disponibili, diciamo, a scendere, a far uscire la rampa, a far tutto. Guarda, per me la cosa più interessante era la reazione della signora che mi stava alle spalle, perché mi guardava, e allora mi sono girato e ho detto, signora, che bello poter andare in autobus assieme. Gli ho chiesto, se ne vedono molti disabili in autobus? E lei mi ha detto, no, veramente lei è il primo. E allora gli ho chiesto, che le sembra? Dice, guarda, finché è salito lei non sapeva a che serviva quel grande spazio aperto a metà dell'autobus. Infatti a tutto serve meno che fare entrare le carrozzine. No, guarda, per darti un esempio, che spesso le strutture esistono e la società che ancora non si è adeguata ad usarle. Anche questo è vero. Non sa bene chi dovrebbe cominciare per prima, le persone ad avere l'orgoglio di vivere in mezzo alla gente. È stato fatto dai nostri amministratori, che hanno adeguato alcuni posti bene, altri meno, altri non per niente. E ora tocca a noi, alla nostra società, alle famiglie dei disabili, di non vergognarsi, di cercare di farli uscire. Io c'ho un amico che ha un figlio autistico, che lo porta spesso dai treni, perché questo bambino ama molto i treni, ha imparato tutti i nomi delle stazioni, lo trova una delle poche cose socievoli che sono rilassanti per lui. Che lo rilassa molto, certo. Lui dice che spesso lui vede altri signori che li guardano tutti e due quasi orgogliosi, fieri di vedere che un papà porta il suo bambino e lo porta in giro nella comunità. Sarebbe bello che fosse un dato diffuso e accettato da tutti. Quindi viaggiare non ti spaventa? No, assolutamente no. Anzi, ti piace? Ma credo che piace a tutti. Va bene, la difficoltà maggiore nel viaggiare, quindi, è detto che molte volte proprio questa sorta di rapporto tra la poca facoltà che hanno le persone disabili di farsi vedere in giro, di uscire, le famiglie a portarli in giro, e le strutture a volte ci sono ma a forza di non essere usate cambiano destinazione d'uso. Ecco, questo è una battaglia culturale forse. Io viaggio molto più a Londra, dove ho la sicurezza di sapere che la maggior parte dei trasporti mi sono accessibili. Se fosse anche soltanto il 40% dei trasporti, forse non viaggerei quanto faccio, perché avrei troppo paura di arrivare in un posto e non saper come tornare. Ecco, allora forse il fatto è questo: siccome non c'è la sicurezza di avere un'accessibilità totale nei mezzi di trasporto, le persone stanno a casa, perché poi è un disastro. Tu arrivi in un posto, ti è mai capitato di avere il panico, dici, ma adesso come faccio a tornare? No, mi è capitato alcune volte che, per esempio, tornando da un aeroporto e prendendo il treno, mi hanno detto che non potevo riprendere il treno perché la piattaforma dove andava quel treno per la mia fermata non c'era l'ascensore. Allora abbiamo trovato un'altra soluzione, sono continuato il treno fino al centro di Londra e da là ho preso un altro mezzo per tornare a casa. In Italia avrei più paura che ci fossero queste alternative, queste soluzioni. È uno dei vantaggi di vivere in una grossissima città. Certo, il rischio di rimanere in un treno se non c'è la piattaforma per farti scendere, che succede? Non ci si può pensare. Accade a volte che per i treni urbani londinesi ho bisogno di un signore che mi piazza la piattaforma per salire e scendere. E mi è successo di prendere il treno da casa, arrivare al centro di Londra e non trovarmi l'assistente perché era andato a prendere una tazza di tè o perché il messaggio non gli era arrivato, quello che è. Però io ho trovato sempre che tutti gli altri viaggiatori che erano con me hanno fatto tutto il possibile, non hanno tirato la catenella per fermare il treno, però l'avrebbero fatto, secondo me, e escono e scendono e trovano la persona per aiutare. Quindi bisogna sempre affidarsi al buon cuore delle persone, non alla certezza del proprio diritto. Sì, guarda, civico che abbiamo, facciamo tutti parte di una comunità, ogni famiglia estesa ha una persona disabile dentro, ci dicono le statistiche. La volontà delle persone per aiutare quelli che sono meno fortunati è enorme, fa parte di questo senso di giustizia che ci portiamo tutti dentro. Sei fortunato le volte che lo trovi, non sempre è possibile nemmeno questo, e quindi già questo va considerato come uno stato di privilegio. Normalmente... Guarda, io sono stato fortunato fino ad ora. Ringraziamo George, ci fermiamo un istante, mandiamo la pubblicità e poi riprenderemo con il nostro secondo ospite. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Il vero paradosso dovrebbe far riflettere coloro che ci ascoltano rispetto alla reale, concreta impossibilità o altissima difficoltà a vivere le città esattamente come le persone che non hanno nessun tipo di problema nel muoversi, nello spostarsi, nel gestirsi. C'è la storia di Vincenzo Falabella. Vincenzo Falabella è il presidente della FISH, che è la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. È un ragazzo giovane, per un incidente, è sulla sedia a ruote, ma ha una famiglia, ha una moglie, ha una figlia, conduce una vita, vorrebbe condurre perlomeno una vita il più vicino alla vita di tutte le altre persone, quelle che riescono comunque a camminare con le loro gambe. Ma anche Vincenzo, che è una figura chiave, è un personaggio, è una persona conosciuta, con un ruolo istituzionale, ha il problema che hanno tutte le persone con delle limitazioni nella loro motilità di muoversi per le città. Vincenzo, qual è l'atteggiamento che riscontro nelle persone attorno a te quando ti muovi in città, quando vuoi parcheggiare la macchina, quando insomma vorresti fare quello che fanno tutte le altre persone? Ma innanzitutto c'è un atteggiamento omissivo nel riconoscere un diritto, che è il diritto alla mobilità per le tante persone con disabilità che vivono nei nostri paesi e nelle nostre città. A questo si deve aggiungere anche l'elemento discriminante della non accessibilità, delle barriere architettoniche, ma anche della inconsapevolezza data da alcuni cittadini che occupare un parco, un parcheggio riservato alle persone con disabilità crea sicuramente enormi problemi in capo alle tante persone che in quel momento hanno necessità di parcheggiare la propria auto. La tua impressione, Vincenzo, è che in realtà questa sia una cultura sufficientemente sedimentata, quello è uno spazio inviolabile, intoccabile, che dietro il rispetto di quello spazio c'è la serenità o addirittura per la possibilità di vita decente di una persona, o anche tu hai l'impressione che hanno tante persone che hanno un parcheggio, che alla fine l'atteggiamento generale è di farti una concessione, perché tu hai un privilegio che gli altri non hanno? Beh, il problema è proprio questo, il fatto di riconoscere un privilegio in capo a una persona con disabilità solo perché magari ha un parcheggio riservato con una concessione. Credo che il problema fondamentale nella cultura, nella nostra cultura, una cultura ancora una volta egoista, una cultura che ancora una volta paradossalmente è discriminatoria nei confronti delle tante persone con disabilità del nostro paese, e credo che l'obiettivo fondamentale, al di là di quelle che sono le normative oggi vigenti in Italia, sia intervenire in maniera significativa per cambiare questa cultura. Quante volte ti è capitato di trovare il tuo parcheggio occupato e quando poi arriva la persona che l'ha occupato ti inventa delle scuse, le qualsiasi giustificazioni, come per dire: ma in fondo cosa avrò mai fatto di male? Ogni santissimo giorno io vivo con l'ansia di tornare a casa dopo una giornata di intenso lavoro e sapere magari che il mio parcheggio è occupato, devo stare in attesa di minuti, a volte anche ore, prima che questo parcheggio si liberi. Poi le giustificazioni sono le più disparate, da quella anch'io ti capisco perché magari nel lontano 1990 mi sono slogato una caviglia e sono stato una settimana su una sedia a rotelle, a quelle molto più spavalde: ah, ma anch'io ho una nonna che sta in sedia a rotelle, o piuttosto che una nonna con handicap, perché parlano ancora così, una nonna con handicap, e quindi capisco le vostre esigenze, ma io avevo da fare, avevo poco tempo e quindi questo parcheggio oggi serviva a me. Quindi la vulgata del pensiero corrente è che una persona efficiente, che deve lavorare, che deve comunque vivere la sua vita in maniera, fra virgolette, normale e consueta, deve avere sempre comunque la precedenza rispetto a una persona che ha delle difficoltà a viverla con altrettanta velocità. È questa la sensazione. Una società egoista, è una società che pensa a se stessa e non pensa agli altri, non è sicuramente una società inclusiva, e questo porta alle situazioni di violazione di diritti che purtroppo le tante persone con disabilità oggi vivono sulla propria pelle. Ti è mai capitato di notare le rampe d'accesso ai marciapiedi, ad esempio? Sono dei parcheggi perfetti, c'entra una panda perfetta. Io ne ho una sotto casa mia che ormai da anni parcheggia sempre nella stessa rampa, come se fosse il suo parcheggio personale, e non si domanda, visto che nessuno glielo fa notare e nessuno la multa, se in realtà occupare quella rampa tutte le mattine non può creare dei disagi, ma anche semplicemente una madre deve spingere una carrozzella. Ti sono capitati episodi del genere, di vederli? Ma sicuramente, io vivo in una zona centrale di Roma, quindi piena di motorini. Tu facevi riferimento alla panda, io faccio anche riferimento ai tanti motorini, parcheggi di motorini selvaggi che parcheggiano anche sullo scivolo piuttosto che sulla zona zebrata del parcheggio riservato, incuranti che quella zona è necessaria e indispensabile per consentire ad una persona di scendere liberamente con la propria carrozzina. Quindi ecco, ritorniamo al discorso di prima: c'è un'incuranza, c'è un egoismo generalizzato purtroppo da parte della nostra società. Ecco, quali dovrebbero essere i luoghi preposti per cui questa cultura dovrebbe cominciare a passare, visto che ormai le generazioni adulte sono perdute? Conosco il problema, ahimè, troppe volte ho provato a discutere, a far capire, vedi sempre persone perplesse, anche irritate: perché insisti? parlando per radio molte volte questi problemi, sempre l'ascoltatore dice: ma basta, hai rotto le scatole, e con questa storia degli handicappati, che rottura di scatole, esattamente testuale come la maggior parte delle volte mi viene scritto, come se alla fine fosse una battaglia perduta. Ecco, invece, se uno volesse ricostruire una coscienza, che in altri paesi c'è abbastanza consolidata, se parli con persone che abitano in altri paesi trovano paradossale che ci sia questo problema della difesa del parcheggio riservato a un disabile. Da dove bisognerebbe cominciare, secondo te? Ma io credo dalla scuola, parlare con i nostri ragazzi, con i nostri giovani, entrare nelle scuole e far capire loro che il senso civico è un elemento importante nella crescita di ogni cittadino, ma nel cambiamento culturale di questo paese. Esiste anche una possibilità di azione proprio urbanistica. Mi viene a pensare che le città in realtà sono solo formalmente adatte ad essere percorse da persone con dei problemi sia di motilità sia di gestione anche della propria emotività. Da che parte bisognerebbe iniziare, o se c'è qualcuno ci sta pensando, a una riprogettazione anche degli spazi urbani, tenendo conto che esistono anche delle persone che non sono dotate al 100% di tutte le facoltà fisiche, sensoriali, mentali, per poter tranquillamente girare nel caos del traffico cittadino? Chi dovrebbe pensarci? Ma guardi, noi abbiamo un dettato internazionale che è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è stata recepita con legge dello Stato italiano con la numero 18 del 2009. È stato approvato un piano abbattimento barriere architettoniche, pochi comuni l'hanno adottato. Beh, credo che sensibilizzare su questi due elementi le nostre amministrazioni, i nostri comuni, le nostre regioni, lo stesso Stato centrale sia l'elemento su cui e da cui partire per poter cambiare l'agibilità e soprattutto la fruibilità degli spazi esterni delle nostre città, così garantiamo a tutti la libertà di movimento che è costituzionalmente garantita da un lato, ma anche e soprattutto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Ecco, il rovescio della medaglia: esistono degli strumenti sanzionatori sufficienti a essere deterrente di chi non osserva comunque le regole basilari? Oggi un condominio che non ha un ascensore a norma cosa rischia? Nulla. La maggior parte dei palazzi del centro storico romano sono inaccessibili, totalmente inaccessibili. Molti servizi pubblici sono inaccessibili. I luoghi di cultura, i musei vaticani non potresti entrare te. Non potresti visitare i musei vaticani perché non sono pensati per una persona che viaggia su una sedia a ruote. Ecco, quali sono gli strumenti sanzionatori? C'è una legge che dice: se non ti adegui comunque devi pagare una sanzione? Ci sono le norme che prevedono anche delle sanzioni. Il problema è i controlli, come devono essere effettuati, da chi devono essere effettuati. Una volta questo tipo di controlli erano in capo alle province, ora con la soppressione delle province è stato tolto anche questo potere a questa entità amministrativa. Un dato di fatto è che bisogna investire tantissimo, e purtroppo questo paese su queste specifiche tematiche non investe per nulla. Basti vedere la legge di stabilità, che sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla legge 13 per quanto riguarda gli edifici privati, ma anche e soprattutto per quanto riguarda gli edifici pubblici, poco ha investito in termini economici. Non viene considerato un investimento congruo investire sulle persone che hanno difficoltà, come se fosse un disegno generale al di là delle buoni propositi, delle dichiarazioni generali sulla realtà, di tenere a distante sempre più dalla vita, dalla dinamica della vita sociale, le persone con delle difficoltà, come se dovesse tendere a uno Stato, una società fatta solo di persone totalmente efficienti, ma il livello di efficienza è sempre piuttosto relativo. Facciamo un altro esempio: il viaggiare. Se tu ti devi organizzare una vacanza con la famiglia, 3 giorni, cosa devi fare rispetto a un'altra persona in più e quali sono le difficoltà? Ma innanzitutto deve avere un target di valutazione abbastanza alto. Un esempio banalissimo: alberghi accessibili sono più che altro alberghi a 4 stelle, quindi occorre avere una sostenibilità economica importante. Quindi solo negli alberghi che diciamo hanno una certa organizzazione? La stragrande maggioranza sono alberghi a 4 stelle e quindi occorre investire, cioè spendere parecchio. Il tema e il problema di fondo è dato dal fatto che oggi la disabilità è vista come un costo e non come una prospettiva di miglioramento da parte anche e soprattutto di queste persone, che poi potrebbero dare un ritorno anche a livello economico. Ecco, questo non mi spiego. Turismo. Perché nessuno intuisce perdonami la parola cruda, il business comunque di tante persone che esistono e avrebbero diritto, voglia, desiderio, gioia di poter viaggiare tranquillamente come le altre persone. Perché fino a poco tempo fa le persone con disabilità non viaggiavano, le persone con disabilità rimanevano chiuse in casa. Da una quindicina d'anni a questa parte c'è stato un cambiamento culturale, una rivendicazione dei diritti da parte delle tante persone che hanno voluto mettere al centro dell'attenzione la persona dopo la disabilità e di conseguenza hanno incominciato ad uscire, hanno incominciato a viaggiare, hanno cominciato a rivendicare i propri diritti e l'applicazione di quei diritti che purtroppo ancora oggi viene violata. Quindi bisogna telefonare prima anche nell'albergo 4 Stelle, assicurarsi se ha una stanza adeguata, diciamo, alle esigenze dell'ospite? Occorre telefonare prima, è anche vero che più delle volte, paradossalmente, queste stanze non sono ben curate come le altre stanze. È come se le persone con disabilità fossero persone di serie C rispetto ai viaggiatori che prendono una stanza non accessibile. Come i bagni per disabili sono sempre sporchi, nessuno li pulisce mai, c'è sempre un cartello, che non funziona perché non è mai pulito. Certo, perché non si pensa che magari una persona con disabilità possa viaggiare liberamente a pari di ogni altro cittadino. È vero che danno per scontato che una stanza per disabili non ci sia letto matrimoniale? Sì, perché non è concepito nella comune valutazione generale che la persona con disabilità possa essere sposata. Io ho avuto una esperienza negativa nel voler fare una crociera, ho dovuto soprassedere perché la compagnia che mi garantiva la crociera non aveva previsto all'interno della stanza un letto aggiuntivo, quindi avrei dovuto dormire in una stanza singola e mia moglie con la bambina avrebbe dovuto dormire in un'altra stanza, perché per loro la risposta è stata: noi non abbiamo mai visto una persona con disabilità che ha una figlia, come se io fossi l'extraterrestre della situazione, sono una persona normale come tante altre che ha una moglie, una figlia e vive con somma dignità la propria vita. Ci fermiamo soltanto un istante per le informazioni sul traffico e poi avremo l'ultima dei nostri ospiti. Melog, cronache meridiane. Passiamo a un altro tipo di problema, ma a una costante nel riuscire a vivere con serenità le città. Antonella Cappabianca, la conosciamo perché altre volte è intervenuta al nostro microfono, è una ragazza che è nata cieca. Ha sposato un ragazzo, Alessandro, anche lui cieco, hanno avuto una bambina, che felice, sprizza gioia e vivacità da tutti i pori. Antonella tutti i giorni va a lavorare camminando a piedi per Roma. Antonella si vuole prendere comunque, come ogni altro essere umano, la libertà e il diritto di andare a spasso con la propria famiglia. Come riesce Antonella a fare questo? Ti posso dire, per esempio, quello che capita a me tutte le mattine, è successo anche stamattina mentre andavo al lavoro. Io vado al lavoro a piedi, faccio un paio di chilometri per arrivare da casa al lavoro. E c'erano scatole, scatoloni, imballaggi sul marciapiede e era impossibile, veramente impossibile camminarci. Ma tu segui il tuo percorso, quello lì? Io seguo il mio percorso abituale, ci proverei a seguire i Loges, però sono praticamente delle armi improprie, nel senso che dentro nel percorso ci sono delle voragini, quindi c'è rischio che ti fai male. Io cerco di evitarli i Loges per evitare di avere problemi, perché diventano veramente pericolosi, soprattutto quando piove. Perché sì, sono anche scivolosi. Sono scivolosi, pericolosi e soprattutto sono dissestati. Ci passano sopra i motorini, ci passano tanto bene. E diciamo quello che è il percorso, come si chiama? Un percorso tattile che tu senti? Senti. Io dovrei toccarlo col bastone, con le scarpe, dovrebbe aiutarmi, però... Sentire quelle... Lo dico per chi ci ascolta che non lo sa. Quella specie di stradine con delle protuberanze non è che servono per andare con i motorini in bicicletta, servono per le persone che non vedono, col bastone, con i piedi, seguono un percorso, dovrebbe essere un percorso sicuro in teoria. Non lo è, soprattutto quello che faccio io la mattina, forse sono sfortunata, dovrei provare a ricambiare lavoro, però quello che faccio io è veramente da evitare. Per se per assurdo tu dovessi protestare con qualcuno, cioè il percorso mio da non vedente non funziona, cosa avrebbe bisogno? Di manutenzione, di interventi particolari? Allora guarda, quello che vedo io tutte le mattine è totalmente divelto, quindi praticamente al posto del percorso ci sono, dove dovrebbe esserci il percorso, ci sono delle buche, per cui io lo evito per evitare di finire in queste buche. Anche perché dovrebbe essere percorribile soltanto a piedi, comincia ad andarci con le moto, è chiaro che... Sì, in realtà è la parte finale di via Colla di Rienzo, che poi va verso il ponte Regina Margherita. E i motorini praticamente, quando c'è il semaforo fermo, invece di aspettare, salgono sul marciapiede, perché lì il marciapiede lo consente, è molto ampio, e sistematicamente sfrecciano su questa parte del percorso. Quindi tu rischieresti anche di trovarti un motorino contromano, ecco. L'ho trovato più volte, motorini contromani, mi hanno anche detto se per favore mi spostavo. Non capendo, perché non sanno nemmeno a cosa serve quella cosa lì, pensano sia un abbellimento, probabilmente. Ma in realtà è vero, non lo sa nessuno. Fra l'altro tante volte mi capita la stessa cosa alla stazione o in aeroporto, la gente pensa che siano percorsi per strusciarci le valigie, strusciandoci le valigie sopra li rompono, li massacri ancora di più. Esatto, li sollevano, cioè li rendono comunque per noi più pericolosi. Vabbè, qua abbiamo capito che camminare a piedi già è difficile. Poi i semafori, esistono i sistemi acustici per aiutarti a capire quando un semaforo è rosso, verde? Allora sì, ci sono i semafori sonori e devo dire che funzionano, almeno nella parte centrale, funzionano abbastanza, è raro trovarli non funzionanti. E per fortuna quelli funzionano, quindi su quello, anzi oggi sono capitata a Piazzale Flaminio e ho visto che hanno cambiato il meccanismo, non c'è neanche più il tastino, è molto intelligente quello che hanno messo, perché praticamente basta avvicinare la mano e sistematicamente il semaforo si rende conto che stai cercando il tasto e si aziona. Ah, quindi questo già è qualcosa. Poi vediamo altri punti di difficoltà per girare una città, per fare quello che normalmente deve poter fare una persona, quindi muoversi tranquillamente. I mezzi pubblici? Beh, i mezzi pubblici sono complicati, nel senso che l'autobus dovrebbe avere l'annuncio di fermata, ma non funziona quasi mai. E l'autobus non è come la metropolitana, che ha delle fermate fisse per cui tu le puoi contare, puoi avere dei punti di riferimento certi, non ha tempi di percorrenza certi, non hai la possibilità di, o ti basi sull'annuncio oppure chiedi. Ma ecco, questo non vale la pena dirlo, gli annunci delle fermate degli autobus, che negli autobus di nuova generazione, quelli che ancora funzionano, più o meno si sentono, sono fatti per le persone che non vedono, per loro soprattutto, per dare un segnale che stai arrivando alla fermata. Ma una volta salita in autobus, trovi persone che ti aiutano a sederti, ti fanno spazio, si rendono conto del tuo stato, oppure anche qui c'è indifferenza in maniera percentuale rispetto alle tante volte che esci? Dipende dai giorni e dipende dagli orari. Per esempio la mattina, quando tutti corriamo, siamo tutti, forse anch'io, meno disponibili. La sera, quando siamo tutti stanchi, siamo ancora meno disponibili. Quindi mai. Se mi capita un mezzo a metà giornata, forse sono fortunata, forse una persona più gentile la trovo. Poi vabbè, sotto le feste di Natale invece sono tutti super gentilissimi. Oggi sul trenino da Piazzale Flaminio a Euclide si sono alzati in quattro, io ho bisogno di un posto solo. Ti potevi stendere a questo punto. Senti, ma tu giri mai con la tua bambina? Sì, assolutamente sì. Ecco, che impressione fa secondo te nelle persone vedere una madre che non vede con una bambina vispa, vivace, vicino? E diciamo c'è un po' di sconcerto, un po' di, forse anche di imbarazzo. Ti hanno mai fatto domande? Ti hanno mai fatto domande? Sì, mi hanno fatto domande. Adesso per fortuna non me ne fanno più, perché Michela è abbastanza sveglia, un paio di volte ha risposto lei. E cosa dice quando risponde? Però tante volte mi hanno chiesto, ma la bambina è tua? No, di solito tutti andiamo in giro col bambino di un altro in braccio e per mano. L'hai rubata? Oppure l'hai adottata? Ma voglio dire, sarà un problema mio. Sì, c'è questa sorta di curiosità. E poi pensa se vai anche in giro con tuo marito, che anche lui non vede, figurati un po'. No, lì creiamo veramente sconcerto e disagio, devo dire. Descrivi un po' la situazione, come la percepisci te? Un padre e una madre che non vedono, con una bambina vivace, vispa, attenta, curiosa, cosa dice la gente? Dunque, fortunatamente in tanti si scostano e questo ci facilita, nel senso che comunque noi abbiamo una sorta di formazione per cui abbiamo il cane all'estrema sinistra, Alessandro abbracciato a me, attaccato a me dietro, perché poi in realtà anche se tu guidi, il cane guida, guido io, Ahimè, sì. La bimba? La bimba sulla mia destra, quindi io praticamente ho Alessandro a sinistra e la bimba a destra e devo pensare a tutti e due sostanzialmente, in un certo senso. Diciamo, tu sei il timone, il cane è il supporto. Il cane, sì, diciamo che il cane ormai è in pensione perché ha la sua bella età e non ha mai avuto una... Ecco, girare col cane guida, lavoro. Dimmi quali sono i problemi per girare col cane guida. Comunque, nelle varie situazioni, taxi, l'abbiamo spesso detto, ma ripetiamolo. Allora, taxi è complicato perché, anche se noi lo diciamo sempre, proprio per evitare problemi, perché poi è spiacevole, soprattutto perché di solito quando si prende un taxi si va di fretta. Quindi io specifico sempre, taxi non vedente con cane guida. Però può capitare che venga il tassista che ti faccia storie. Che dice che lascia il pelo a queste cose. Sì. Assolutamente, peggio ancora è quando hai da prendere il taxi, magari arrivi in una stazione o in un aeroporto e devi prendere necessariamente il taxi, il primo della fila non ti prende, il secondo non ti prende, il terzo non ti prende e alla fine uno ti dice che ti prende perché lui crede in Dio e io gli dico vabbè, ma anche delle credenze personali un atto di misericordia, un atto di misericordia, scusa. Sì, in realtà questo è un diritto, questa è una cosa che mi dispiace tanto perché è una cosa che capita spesso anche per dire una cosa sulle le sale blu, che sono le sale che fanno l'assistenza disabili nelle ferrovie, e anche lì ci sarebbe da parlare, nel senso che per esempio l'assistenza disabili la devi chiedere, la devi sempre programmare, cioè un disabile non può avere un contrattempo, non puoi avere un incidente, un lutto, un problema, una qualsiasi cosa. Se ce l'hai devi stare alla disponibilità di chi ti sbriga la pratica, che a volte c'è, spesso per esempio nella sala di Roma, io devo essere sincera, la sala blu di Roma funziona davvero, nel senso che obiettivamente a me è capitata più di una volta un'emergenza e mi è capitato anche di chiedere meno dell'ora di preavviso e di avere l'assistenza disabili. Però loro poi hanno un sistema per cui nelle stazioni che non sono le grandi stazioni, cioè Roma, Milano, ti chiedono le 12 ore o le 24 ore di preavviso. Quindi devi fare un viaggio rispetto agli altri, un viaggio super programmato. E quando scendi in albergo devi avvertire prima, guardate, arriviamo, siamo due, non vediamo e abbiamo una bambina che vede. Devi sempre dare questa sorta di lettura. No, non do spiegazioni sulla bambina, ma do spiegazioni sempre sul cane, perché comunque sia, anche se è un obbligo, non tutti gli alberghi te lo prendono. Non tutti gli alberghi sono, comunque quando glielo spieghi capiscono che è una questione di legge, tutti te la mettono sotto l'aspetto, va bene, le facciamo un favore. Non è un favore, è un diritto. Sono obbligati, ma anche i tassisti sono obbligati. Anche i tassisti sono obbligati. Non esiste, non ti faccio salire col cane. E questo è quello che mi dispiace, che alla fine ci smerciano, diciamo, come un favore o una pietà, una scelta religiosa, una cosa che invece la legge ci garantisce. È un tuo diritto, sarebbe in teoria un tuo diritto acquisito, certificato, riconosciuto. È sempre un atto, vabbè, dai, ti prendo su visto perché sono buono, così è la questione. Sì, insomma, non è giusto secondo me, anche perché le leggi ci sono, noi ne abbiamo tante e le abbiamo buone. Però poi purtroppo nessuno capisce e nessuno le rispetta. Ma tu hai mai sentito dire, non lo so, io non ho letteratura in proposito, di un cieco che ha denunciato un tassista in albergo per inadempienza? Sì, ce ne sono stati tanti. Io stessa, quando eravamo più giovani, io e Alessandro avevamo molta voglia di discutere, adesso siamo quasi arresi, e ho fatto una causa di questo genere, ho chiamato la polizia municipale, hanno elevato la multa al gestore che non ci faceva, fra l'altro non ci faceva accedere non a un locale chiuso ma a una terrazza sul lungomare, quindi una terrazza piena di sabbia. Si era impuntato proprio, non voleva. Sì, non voleva. Per principio. Non voleva la persona non vedente con il cane. Abbiamo fatto causa, abbiamo vinto la causa, ma questa persona non ha pagato niente. Io non ho un problema di soldi, non ne ho fatto un problema di soldi, ma questa persona non ha pagato né la multa né nel risarcimento, quello che è stato stabilito, perché praticamente pure se gestisce un locale eccetera, per lo Stato è un nulla tenente. E fra l'altro la cosa più divertente è che io, lavorando, gli pago la pensione sociale. È sempre così, ahimè, le cause civili, quando uno si avvicina al momento di pagare, improvvisamente diventa nulla tenente, quindi hanno un relativo peso. Quindi in linea di massima una persona che non vede deve arrangiarsi, sempre un lavoro in più rispetto alle altre persone per riuscire a vivere una vita che assomiglia a una vita normale. Dai, tutti dobbiamo arrangiarci. Io quando mi voglio consolare penso sempre che almeno non c'ho mai il problema di trovare parcheggio per la macchina, che è una cosa che vedo che stressa tantissimi i miei colleghi, per esempio. Perché non guidi, solo per questo. Esatto, perché non guido e quindi non ho il problema di trovare il parcheggio. Però quello che mi dispiace è che ci sono delle cose, delle piccole cose che ciascuno potrebbe fare, come per esempio non lasciare roba sui marciapiedi, non ostacolare i percorsi, non camminare col motorino sull'Oggest. Sono cose che alla fine a ciascuno di noi non costerebbero niente o costerebbero molto poco, cioè basterebbe semplicemente rinunciare a delle brutte abitudini, però forse non ci si rende conto del danno che fanno agli altri. Va bene Antonella, ti auguro buon viaggio, buon transito, buone vacanze e muoverti sempre in maniera più veloce, più sicura, più tranquilla, più serena e meno arzigogolata. Te e la tua famiglia. Ciao. Grazie. Ciao.